Allora, il tutto viene da una grande passione che ho per il disegno da sempre, da quando mi sono laureata su una tesi sul disegno di Giacometti, e poi ho trovato un compagno meraviglioso in Claudio Musso, che ha curato la mostra insieme a me e che quindi, molto più giovane, ha anche portato un occhio più fresco sui segni degli artisti più giovani, e quindi è veramente un viaggio, come un percorso, un incamminamento dove i segni si abbracciano, si inseguono, si sovrappongono, si attraggono, e quindi si parte da un disegno di Boccioni del 1909 fino ad arrivare a disegni di artisti trentenni, e quindi davvero è più di un secolo di disegno. Ovviamente parliamo di un'arte che viene sempre considerata minore, no? Rispetto al quadro, rispetto alla scultura, rispetto all'installazione, e invece è un mondo. In un piccolo foglio di carta basta poi, appunto, una matita, della china, strumenti molto poveri per condensare energia accumulata, pensiero, libertà. Ogni artista poi ha il proprio segno. Certamente, tra l'altro si arriverà fino ad opere molto recenti, anche a opere del 2020. Ci sarà un filo conduttore che unisce questi secoli di arte? Allora, il filo conduttore è proprio il segno, nel senso sono 141 i disegni, quindi nell'allestimento abbiamo proprio privilegiato non tanto l'andamento cronologico quanto un segno che chiamava un altro segno. Poi pensate anche alla difficoltà comunque di mettere insieme delle opere con anche provenienze diverse, misure diverse, cornici diverse. E quindi l'idea era proprio di contaminare i grandi nomi del passato, perché è presente Morandi, De Chirico, Balla, Boccioni, con artisti della pop art, dell'arte concettuale, ma anche proprio con gli artisti più giovani, creando anche un ponte, per esempio, tra artisti che sono più conosciuti perché appartengono all'arte urbana o al graffitismo, ma invece, per esempio, sono abilissimi disegnatori. E quindi perché non metterli a dialogare insieme ad artisti del passato? Anzi, c'è un momento molto bello alla fine dell'esposizione in cui, per esempio, abbiamo con coraggio messo vicino un disegno di Alberto Martini degli anni 30 con un disegno stupefacente di Eric Alcane. Siamo anche un po' divertiti, perché insomma il disegno ti dà questa grande libertà di poter azzardare e di poter fare accostamenti insoliti. Certo, di poter spaziare un po', ecco, diciamo così. E come sarà possibile visionare la mostra? Si deve prenotare? Come funziona adesso per andare in un museo? Dove vedere una mostra? Siamo un po' disabituati, forse. Sì, siamo disabituati. Infatti, per noi è stato bellissimo inaugurare il 27, che era la giornata mondiale del disegno, e i primi spettatori che sono entrati avevano una voglia negli occhi che si proprio leggeva, si percepiva, di poter rivedere da vicino delle opere. Allora, è tutto gratuito, ma bisogna ovviamente prenotarsi, perché è obbligatoria la prenotazione per il tracciamento. Sono 7 persone alla volta, ogni mezz'ora, e ci si prenota sul sito della Fondazione del Mondo. È molto semplice, viene fuori un banner nero e è davvero semplicissimo, e quindi questa obbligatorietà porta anche, secondo me, le persone a organizzare la visita, a darsi un tempo anche per la cultura, non improvvisare, può essere anche molto interessante. Certo, assolutamente, uno si può organizzare la giornata proprio in base, no? Anche la voglia di vedere una mostra, e quindi di decidere anche con anticipo, appunto, come stavi dicendo tu adesso, di prenotare con coscienza, no? In qualche modo di andare, appunto, a visionare la mostra. So che ci sarà anche un volume in vendita che racchiude un po' questi secoli di disegno in Italia. Sì, il volume è un libro, io e Claudio lo chiamiamo proprio libro con la L maiuscola, perché non è solo il catalogo della mostra. Abbiamo proprio pensato anche graficamente a una veste particolare, ed è ha una carta molto, molto bella, insomma anche a livello tattile è una bella pubblicazione, ed è proprio strutturato in un modo un po' diverso rispetto ai soliti cataloghi. perché inizia proprio subito con i disegni degli artisti, 141, messi in ordine cronologico nel senso di nascita dell'artista, e quindi si va dagli artisti più vecchi agli artisti più giovani, senza testo di presentazione. Ogni disegno dell'artista ha di fianco invece un'autopresentazione, un pensiero dell'artista sul disegno, e quindi è un bellissimo volume non solo da guardare ma anche da leggere, proprio per la ricchezza delle poetiche degli artisti. I testi, il mio e quello di Claudio, sono alla fine, se uno alla fine ha voglia magari appunto di approfondire il nostro sguardo sul disegno, perché poi è ovvio che abbiamo portato avanti nelle nostre scelte certamente una filologia e una storia dell'arte, ma anche dei gusti personali, perché quando un curatore poi fa una mostra, insomma, mette in moto anche le proprie passioni, no? E le proprie voglie, non solo quindi quello che è estremamente conosciuto, magari tirando fuori anche degli inediti o qualche nome meno famoso, che invece così acquista forza e acquista valore. Certo, assolutamente. Per cui il catalogo è edito da Corraini e si trova da lunedì nelle librerie oppure sul sito di Corraini Editore.